Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di una rivista che però è quasi un libro, una rivista di economia ma anche di politica. Parliamo di Aspenia e diciamo buonasera a Marta Dassù, che è di Aspenia e direttrice. Buonasera. Marta Dassù è direttrice appunto di Aspenia, che è la rivista dell'Aspen Institute, che viene distribuita con il Sole 24 Ore per un mese, quindi fino a oltre metà novembre, e quindi è una rivista però trimestrale che esce ogni tre mesi, è vero Dassù? Sì, è edita da Sole 24 Ore, però questa volta viene abbinata, diciamo così, al quotidiano, quindi può essere comperata ad un prezzo inferiore del solito, per parlare di soldi con voi, certo. In genere costa 12 euro, che è il prezzo normale di questo genere di riviste, questa col Sole in abbinamento ne costerà, mi sembra, 9,90, quindi è un prezzo migliore. Quindi comprate e fate comprare a Aspenia insieme al Sole 24 Ore, che è un po' il nostro dovere. Ecco, una rivista, questo numero è un numero particolare, come poi sono particolari un po' tutti i numeri di Aspenia che concentrano la loro attenzione su un tema, poi dedicando anche altri articoli a tematiche di varia umanità. I due temi forti di questo numero sono le idee, ripensare le economie, i numeri non bastano, e lo scenario dedicato a Milano 2015, la sfida della Smart City. Io direi di partire da questo tema, ripensare l'economia, a cui peraltro è dedicato anche l'editoriale di Marta Dassù, che si intitola L'economia mondiale, falchi, colombe e gufi. Ecco, sembrerebbe il titolo di una rivista di scienze naturali, invece si parla appunto di falchi e colombe come metafore un po' degli atteggiamenti delle persone di fronte all'economia, un'economia che spesso si ritiene una scienza esatta, ma esatta non è, è vero Marta Dassù? Sì, allude al dibattito che c'è stato in questi ultimi anni, in particolare in Europa, fra i fautori molto rigidi dell'austerità fiscale e delle riforme strutturali come unica leva per una ripresa economica, e le colombe che invece insistono sulla necessità di una domanda, diciamo così, di tipo keynesiano. Sono i grandi filoni del dibattito sull'economia, e noi riteniamo, parlando così scherzosamente dei gufi, che in realtà ci voglia un atteggiamento molto più pragmatico, e tutto sommato io credo, giudicando dalle vicende di queste settimane in Europa, che l'esigenza di un maggiore pragmatismo già si veda e che si possa sperare tutto sommato che la nuova Commissione europea guidata da Juncker avrà sul problema della ripresa economica in Europa un atteggiamento meno falco o di quanto non fosse in precedenza. Ecco, forse la divisione non deve essere tanto tra falchi, colombe e gufi, ma tra pragmatici e iperrealisti o ideologici, oppure tra il buon senso e la scarsa capacità di comprendere le cose, anche perché l'economia, come sottolinea appunto nel suo editoriale, non è una scienza esatta, è una scienza che va intrecciata poi con la politica, con la psicologia, con tutte le altre scienze umane che hanno comunque un elevato grado di variabilità, che vanno comprese soprattutto guardando alla realtà dei fatti. Marta alla Dassù. Realtà, sì, effettivamente è così, questo è un punto fondamentale di questo numero di Aspenia, l'economia è una scienza sociale. Credo che sia anche interessante collegare i temi di questo numero al dibattito attuale in Europa. Io credo che sia importante vedere quanto questa nuova commissione, che sta per entrare in funzione ma che si è già espressa sulla legge di stabilità di paesi come l'Italia e la Francia, avrà un atteggiamento più pragmatico, appunto, meno falco per così dire, e così i principali paesi del Consiglio europeo. Credo che ci sia qualche segno di ravvedimento, qualche segno, possiamo dire allora, di pragmatismo, come lei diceva, e questo è molto importante perché l'Europa indubbiamente rischia una stagnazione secolare. Il grosso problema dell'Europa è di riuscire a far ripartire la crescita, di ridurre la disoccupazione. Di fronte a un tema come questo, atteggiamenti ideologici certamente non servono. Ecco, direi che forse l'interessante tesi di questo numero è anche il fatto di far dibattere delle posizioni un po' diverse tra gli economisti. Nicola Rossi, per esempio, intitola il suo articolo In difesa degli economisti, Paolo Guerrieri La scienza triste e il suo incerto futuro. Poi ci sono articoli sulla demografia geografia, sulla geoeconomia, sui mercati emergenti, quindi una visione complessiva che sì, dà un'idea appunto della complessità, scusate la ripetizione, però dà un'idea della necessità anche di affrontare questi temi, come dicevamo all'inizio, in modo pragmatico. C'è un interessante... Sì, se la interrompo. Sì, e in effetti poi le ricette sono diverse, le situazioni sono diverse. Non dimentichiamo ad esempio che mentre in Europa il rischio è quello di una stagnazione secolare, questa è la certo. tesi di un grande guru dell'economia come Larry Summers, che ritiene che ad esempio il declino demografico, c'è un saggio su questo in Spagna, effettivamente sarà un grossissimo problema per la ripresa economica europea. In America in realtà l'economia va meglio di quanto non si dica o di quanto addirittura non percepiscano i cittadini, e qua uno dei motivi per cui l'America in questo momento traina un certo tipo di ripresa è la grande rivoluzione energetica degli ultimi anni, che ha fra l'altro prodotto un fenomeno di cui anche si parla nel numero, e cioè un effetto di reshoring. C'è una parte dell'industria manifatturiera che sta tornando in America e che si sposta dall'Europa all'America proprio perché i prezzi dell'energia sono enormemente più bassi che in Europa e anche in Asia. Quindi c'è uno scenario diversificato, i mercati emergenti sono in difficoltà in parte, abbiamo visto i risultati delle elezioni in Brasile, ma in effetti i mercati hanno reagito male perché il Brasile, dove c'è una classe media emergente, ha però dei problemi di crescita in questo momento, così come c'è uno slowdown della Cina per la prima volta dall'introduzione, io direi praticamente, delle riforme di Deng Xiaoping nel 1979. Per la prima volta la Cina ha un vero arresto di crescita, cioè uno slowdown della crescita, un rallentamento della crescita molto evidente, che ha costretto a modificare le statistiche. E qua c'è un bel saggio sulle statistiche cinesi, un punto molto controverso, no? Quanto siano credibili o meno, è un saggio da leggere di Daniel Rose, che spiega appunto che i numeri in un certo senso vanno prese con le molle. Infatti il titolo è "Non falsificate i numeri, le statistiche cinesi". E c'è anche un altro articolo, "La Cina al bivio dell'urbanizzazione". Ecco, urbanizzazione, e parliamo allora del secondo argomento forte di questo numero, che è la Milano 2015, la sfida delle Smart City, l'Expo 2015. Ci sono articoli di Francesco Caio, di Carlo Ratti, di Sara Cristardi, di Giuliano Pisapia, che parla del patto tra i sindaci del mondo. Ecco, come mai questa attenzione di Aspegna, dell'Aspen Institute, di fronte alle Smart City, di fronte alla modernizzazione delle città? Ma perché le città saranno in effetti l'ambiente della crescita futura, cioè gran parte dello sviluppo industriale dei prossimi decenni avverrà nelle città per l'urbanizzazione, che è un fenomeno che appunto investe non solo le nostre società, ma anche le società dei paesi cosiddetti emergenti, ma che in effetti in gran parte sono emersi. La Cina è il caso più macroscopico di queste megalopoli insieme all'India, e quindi ci si deve porre il problema di come organizzare lo sviluppo industriale moderno avendo la città al centro. Da questo punto di vista i grandi eventi sono sempre serviti a trasformare le città, ma pongono anche tutti i problemi che vediamo con Expo, e questa parte del numero di Aspegna appunto affronta questo tema insieme al tema geopolitico di fondo, e cioè tutta la questione della food security. Devo dire che c'è un bel saggio su questo del Ministro dell'Agricoltura, di Maurizio Martina, che spiega come la questione dell'accesso al cibo vada ormai vista come uno dei diritti umani. Questo è il grande dibattito che si sta svolgendo nelle Nazioni Unite e che Expo 2015 vorrebbe mettere al centro della legacy, diciamo così, politica e intellettuale di questo evento. Certo, Maurizio Martina tra l'altro comincia proprio il suo articolo ricordando che 800 milioni di persone denutrite a livello globale e 1 miliardo di persone che nel contempo rischiano l'obesità, e che ogni anno va sprecato cibo per una cifra pari al PIL di Svizzera e Turchia, e questo sarà uno dei temi dell'Expo 2015. Sì, infatti Expo dedicherà grande attenzione a questo problema dello spreco, perché in un certo senso c'è un punto da tenere presente. Dal secolo scorso in poi, dal 1945 in poi la capacità di produzione agricola è aumentata in modo maggiore della popolazione, quindi in teoria in questo momento noi avremmo cibo sufficiente per sfamare, diciamo così, una popolazione in espansione se la distribuzione fosse una distribuzione più equilibrata. Quindi il problema della fame è anzitutto un problema di accesso al cibo. Va anche detto che il numero di persone che soffrono la fame si è ridotto in modo sensibile negli ultimi anni, soprattutto come risultato della grande crescita economica della Cina, ma naturalmente rimangono dei numeri tremendi, quelli che lei citava. Certo. Che quindi impongono di risolvere perlomeno o di affrontare in modo molto più intelligente questo problema dello spreco, che naturalmente è diverso nel mondo, nel nostro mondo, nel mondo sviluppato e nel mondo in via di sviluppo. Da noi il problema dello spreco è un problema di consumo, cioè compriamo troppo cibo rispetto a quello che poi consumiamo, certo, e il resto viene appunto sprecato. Nei paesi in via di sviluppo è un problema invece di produzione, ad esempio, non so, la mancanza della catena del freddo nei paesi africani conduce allo spreco di una parte della produzione agricola. Però è importante dire che tecnologicamente avremo le possibilità di affrontare questi problemi e Expo 2015 può essere anche un'occasione. Ho solo il tempo di ricordare velocemente altri due temi del numero di Aspegna. Questo è un dibattito tra pessimisti e ottimisti, c'è anche un articolo sull'economia dell'ottimismo, questo andrà letto per primo probabilmente, non si può non parlare di Piketty e del suo capitale del XXI secolo. Io ringrazio Marta Dassù per essere stata con noi, abbiamo parlato del numero di Aspegna che è in edicola insieme al Sole 24 ore fino a metà novembre, costa 9,90 euro. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, grazie a Carmelo Lauricella in regia e Luca Cremonesi in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagina è per sabato prossimo.